Sì, abito. Okay. Sì, ditemi tutto, dai. Veloce, dai, scappare, regista. Come si chiama? Oreste. Sei di Lizzano? No, sono nativo dalla Sicilia. Oh, ok. Però vivo a Lizzano da 15 anni. Ok. Ti piace vivere lì? Sì e no. Sì, perché è un paese, cioè, è una frazione molto... Stai più vicino. È una frazione molto, molto carina, un bel borgo. Ci sono... No, perché ci sono pochi negozi, poco... Diciamo, ti devi spostare. Ci sono dei rumori che danno fastidio? No, effettivamente no. O che le piacciono? I rumori sono... No, rumori no, suoni. Rumore pro e contro, cioè... I pro è che è un bel paese, un bel borgo, gente bella, simpatica. I contro è che potete vedere anche voi, non c'è un negozio, non c'è un punto caratteristico se non il bar e la cooperativa e basta, cioè. Ci sono vicini che fanno rumore? No. È cambiato qualcosa da quando vivi qua? Forse più attività dei ragazzi. Fatto del... fatto del calcio splash, di tutto, come si dice, della banda musicale, delle organizzazioni che fanno durante l'anno. Beh, un bel paese da vivere questo è un bel borgo da vivere.